Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, qualche settimana fa abbiamo ricordato l'anniversario di Sarajevo, che fu una data fatidica per l'Europa, perché da lì partì la valanga che poi portò alla prima guerra mondiale e alla dissoluzione della vecchia Europa, in particolare di alcuni imperi, fra i quali l'impero asburgico. Quell'attentato fu veramente la premessa della fine, della caduta dell'impero degli Asburgo, e un'anticipazione di quella fine può essere considerata la vicenda quasi surreale del funerale delle vittime dell'attentato di Sarajevo, ossia il granduca Francesco Ferdinando, che fu ucciso assieme alla moglie morganatica Sophie Kotek, morganatica perché la donna non era nobile e quindi non aveva diritto al titolo di granduchessa. Il funerale, o meglio la preparazione di quel funerale, gettò nello sconquasso la corte proprio per la differenza di rango tra le due vittime, tra il granduca e la moglie, che granduchessa non era, e infatti alla moglie non venne riconosciuta la sua dignità nemmeno da morta, e da morta accanto al marito. E almeno questa fu la decisione di chi organizzò quell'esequio, che fu il gran ciambellano della corte, il principe Alfred di Montenuovo. E questa vicenda ricostruisce Edgarda Ferri, scrittrice, giornalista, autrice di Guanti Bianchi, pubblicato da Schirà, 188 pagine, 15 euro. Il libro è diviso in 7 capitoli, ciascuno relativo alle 7 giornate che passarono tra l'attentato e il funerale, nel quale il libro è appunto soprattutto ricostruita la figura arcigna di questo gran ciambellano, il suo attaccamento pressoché morboso all'etichetta di corte e anche il relativo fallimento del suo disegno di fare cadere nell'indifferenza e nell'oblio il commiato, soprattutto nei confronti della Kotek. E quindi troviamo qui una ricostruzione molto umana del crollo di un mondo, di cui adesso parliamo con l'autrice. Buonasera Edgarda Ferri. Buonasera a tutti e grazie, buonasera. Edgarda Ferri, questo suo libro dà un quadro, un ritratto un po' sinistro della corte degli Asburgo, in particolare di questo gran ciambellano, il principe Montenuovo. Che tipo era questo signore e che ruolo svolse soprattutto dopo l'uccisione di Francesco Ferdinando in quel fatale 1914? Alfred di Montenuovo è un personaggio chiave del mio libro, non l'avrei scritto se non avessi trovato il bandolo vero di questa storia, perché Montenuovo è la traduzione di Neipperg, e lui infatti è figlio del figlio di Maria Luigia d'Austria, moglie dell'imperatore Napoleone Bonaparte, figlia dell'imperatore Francesco, che aveva avuto due figli naturali da Neipperg, che portavano il nome del padre e si chiamavano Neipperg anche loro. C'è stata questa traduzione italianizzata, Montenuovo. Quindi Alfred di Montenuovo è in realtà, almeno per metà, è un Asburgo, ed è l'uomo che infierisce di più sulla sepoltura, sulle esequie, sulle cerimonie che spettano non soltanto a Francesco Ferdinando, che era l'erede al trono, ma a sua moglie Sophie Kotek, che era la moglie morganatica e secondo lui, secondo il protocollo, non aveva alcun diritto di esequie ad alto livello. Ecco, fermiamoci un momento sul gran ciambellano, che appunto svolse un ruolo importante nella corte dell'imperatore, ma aveva una specie di rivalsa proprio per le sue origini. Arrivata, siccome questo libro si svolge in 7 giorni, che sono i 7 giorni dal colpo mortale di Sarajevo alla definitiva sepoltura di queste due povere creature, che finiscono sepolte in un loro castello privato, perché l'arciduca aveva lasciato scritto in un testamento: qualora fosse morto non sarebbe mai sceso nella cripta dei Cappuccini senza sua moglie. E quindi la storia si svolge in questi 7 giorni, da Sarajevo a Trieste, poi a Vienna, dove c'è questo frettoloso e vergognosissimo funerale, e poi di notte questo trasporto nel castello di Astetten. Il gran ciambellano di corte ha delle facoltà incredibili, era un burocrate naturalmente, conosceva a memoria tutte le regole e muoveva il destino e la vita degli arciduchi e delle arciduchesse. qualsiasi cosa facessero che andava contro quella che loro chiamavano pomposamente la stabilità della monarchia, ovvero uno sgarro, un capriccio, un matrimonio fuori dalle regole piuttosto che particolari vizi personali come è accaduto. Questi arciduchi e arciduchesse Asburgo, che erano una quantità sterminata perché figli e nipoti ce n'erano in quantità, recedevano nei loro ranghi, e lui era quello che decideva come dovevano recedere, quindi non c'era solo la forma, la posizione quando andavano in processione o andavano in chiesa e si sedevano nei banchi o a teatro, uno dietro l'altro avanti, c'è tutto questo gioco, uno scacchiere immenso, questa era la forma, ma erano gli incarichi, erano i poteri, perché ogni arciduca, ogni arcidochessa aveva degli incarichi particolari. E lui, questo Alfred di Montenuovo, aveva, in qualità di gran ciambellano, come era stato anche prima di lui di un altro e di altri, aveva la possibilità, era la sua discrezionalità, perché era lui che districava tutte queste cose, di togliere loro le prebende, di togliere i benefici, i privilegi, le pensioni, tutto quanto. Infierisce in una maniera perfida su questa donna, che era una nobile, nobilissima di origine, ma non entrava nel rango delle arciduchesse o delle figlie di re che avrebbero potuto sposare il futuro imperatore. Io mi sono chiesta perché lui aveva questo particolare astio nei confronti di Sophie Cotec. Siamo alla vigilia, siamo sul baratro. La monarchia che lui sta difendendo fino alla disperazione, fino alla perfidia, con queste cerimonie così rigorose, sta crollando da sola. Sta crollando, lo sappiamo. Secondo me, lui che si sente un Asburgo, ma non è riconosciuto un Asburgo, è un bastardo. Secondo me è l'ultimo Asburgo che resta, cioè è come un capitano di una nave, non abbandona la nave, cerca di tenere dritta la rotta pur sapendo che dopodomani affonderanno tutti. Ma secondo lei lui e l'imperatore anche avevano la percezione di questo baratro? Perché dal libro in fondo non si direbbe. Nella monarchia Asburgo c'era questa concezione, loro si vantavano di essere la monarchia più antica d'Europa, 800 anni, si sentivano 1, 2, 3, 5 gradini più alti degli altri, vivevano chiusi nel loro guscio che era fatto appunto di tutte queste parentele, e in realtà loro non ascoltavano nessuno, era una corte molto chiusa. Anche Francesco Giuseppe aveva i suoi ambasciatori, ministri della guerra, così, ma non volevano sapere. Io ho avuto dai documenti che ho studiato e dalle lettere, loro non volevano sapere, anche se Francesco Giuseppe avrà letto i giornali e non solo le satire, ma anche quello che veniva da fuori, dall'estero. Sei mesi prima un importante giornale francese dell'epoca aveva titolato un pezzo, un'inchiesta che avevano fatto sulla corte, un impero che crolla. Quindi loro erano consapevoli, non volevano saperlo, loro hanno ballato fino in ultimo sull'orlo del baratro. C'era mi viene in quel momento, era piena di fermenti intellettuali, c'erano a parte Freud, Karl Kraus, Schiele, Kokoschka, Schoenberg, c'erano tutti, era il momento più brillante, però anche loro, e io metto nel libro, ho trovato tutte le osservazioni che loro fanno, soprattutto quando muore quando viene ucciso Francesco Ferdinando. Loro sapevano benissimo che stava andando tutto a catafascio, ma con una grande malinconia nelle loro opere, perché si capisce da tutto quello che viene scritto, rappresentato nella musica, Mahler, tutti quanti sono impregnati di una grande malinconia. Loro sanno dove stanno andando a finire, scivolano dentro questo baratro. Quindi non è soltanto la corte Asburgo, è tutto l'ambiente, la società. Si lasciano andare. Bene, grazie a Edgarda Ferri, autrice di Guanti Bianchi. Buona serata. Grazie altrettanto a voi. Buona serata a tutti. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto di Adriano Panatta, Lei non sa chi eravamo noi, scritto, precisa il sottotitolo, con la canagliesca partecipazione di Paolo Villaggi, pubblicato da Mondadori, 118 pagine, 17 euro, questa è la storia di un'amicizia sublimata in un'esperienza estiva del 1982 che finisce con l'assumere toni fantozziani ma a parti rovesciate. Poi vi presento un saggio sulla durezza dei nostri tempi di Igino Domanin, pubblicato da Bompiani, 196 pagine, 12 euro, e si intitola Grand Hotel Abisso, in cui non si fanno sconti al periodo in cui siamo protagonisti e attori, che suscita osservazioni spesso assai cupe all'autore. Chi cerca conforto nello yoga, magari rispetto alla durezza di questi tempi, può leggere utilmente Yoga Sutra di Papaniali, un filosofo indiano del secondo secolo avanti Cristo, di cui questa è l'unica opera nota ed è considerata una delle opere fondamentali della spiritualità indiana. E infine un'autrice che ha avuto un grande successo col libro L'imprevedibile viaggio di Fry, di cui questa è una sorta di sequel, si intitola La canzone d'amore di Kini Hennessy, tradotto da Alda Arduini e Lucia Olivieri per Spelling e Kufer, 346 pagine, 16 euro. L'autrice è Rachel Joyce. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, adesso parliamo di ragazzi e vi segnalo innanzitutto il libro di David McGulloch Jr., Ragazzi, non siete speciali, il non è sottolineato anche nel titolo, sottotitolo E altre verità che non sappiamo più dire ai nostri figli, pubblicato da Garzanti, tradotto da Roberto Merlini. 244 pagine, 15 euro. L'autore è un docente di inglese nelle università americane che con questo primo libro ha raggiunto un gran successo. È un libro nato per caso da un discorso di fine d'anno universitario tenuto appunto dal docente nel 2012, che a sua insaputa era stato registrato e poi lanciato da tutte le piattaforme social. Questo discorso spopolò, ebbe un enorme successo, suscita un'enorme impressione e l'autore diventa una star grazie appunto a queste apparizioni involontarie sui social forum. Tutti gli inviano messaggi e richieste di interviste e da questo successo nasce appunto questo libro di cui l'autore spiega così la genesi. Quello che ho detto derivava da una sempre maggiore preoccupazione per ciò che ho visto negli ultimi anni in aula, nella scuola, nella cultura e nella mia famiglia. Spinti da genitori ben intenzionati e benestanti, ma troppo spesso assillanti, gli adolescenti sono ormai ossessionati dal mito del successo a tutti i costi, non di rado a spese di importanti esperienze formative. Molti hanno sviluppato un'autostima eccessiva che li porta a chiedere sempre di più e a considerare dovuto ogni riconoscimento. I concetti di uguaglianza e di correttezza sintetizzati nella frase «non siamo superiori», che hanno sentito ripetere fin dall'asilo, non impediscono loro di credersi speciali. Così si aspettano naturalmente una sequenza di trionfi e quindi una grandissima felicità. In questo nuovo culto dell'eccezionalismo, essere nella media, cioè dei ragazzi come tanti, per la maggior parte un fatto statistico inevitabile, vuol dire apparire inferiori. Essere ordinari significa rimanere indietro. Non c'è dunque da sorprendersi se molti dei nostri figli fanno fatica a capire cosa conta davvero. Non c'è da stupirsi se tanti, impreparati e ansiosi, faticano a trovare la propria strada. Nel nonostante tutti i mezzi e gli strumenti di cui dispongono i ragazzi di oggi, questi fanno quasi pena a McGallo, che osserva: sono dei secchioni che vanno in giro con i paraocchi, sono costruiti e puntati sul successo, essere i primi della classe, ottenere i massimi voti, raggiungere obiettivi, suonare Bach, dimostrarsi sempre e costantemente speciali. In tutto quello che fanno, perciò, la posta sembra loro spaventosamente alta. Basta il minimo tentennamento e intervengono i genitori. E ancora, dice l'autore, fin da piccolissimi vengono legati al seggiolino di sicurezza e in un certo senso non ne scendono mai. Sono protetti, guidati e indirizzati verso una meta ben precisa. Vengono scarrozzate le partite di pallavolo, ai recita al violoncello, ai tornei di scacchi, alle sedute di atletica, ai corsi di calcolo differenziale, ai seminari di gruppo attitudinale, alle sessioni di brain training. L'aspettativa o la fervida speranza, conclude l'autore, è che tutto questo sbattimento paghi presto dei dividendi. Insomma, questo libro vuole allertare i genitori, soprattutto i genitori di un certo ceto sociale, ossessionati dalla ricerca del successo a tutti i costi per i figli, magari attraverso lo sport, che assume anch'esso tratti parossistici, e perciò l'autore conclude con alcuni consigli anche ai figli, anche ai ragazzi, di acquistare una propria dimensione, magari, dice McGallo, con i libri. Raccomanda infatti l'autore: i libri sono il capitale generato dall'esperienza umana, la ricchezza della nostra mente. I libri vi aiutano a pensare più in grande e più lucidamente, perciò con la lettura vi arricchite di idee e diventate migliori. Dovreste leggere in continuazione, seguendo i vostri interessi. Qui l'autore, e io aggiungo, e ascoltate questa trasmissione. Una guida al rapporto tra genitori e figli, invece, è il libro del pedagogista Daniele Novara. Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti con i figli per farsi ascoltare e guidarli nella crescita, pubblicato da Rizzoli, 284 pagine, 13 euro. Attraverso una serie di casi e di testimonianze troviamo qui un approccio al rapporto educativo che, secondo l'autore, deve essere basato sulla capacità di gestire i conflitti con i propri figli. Non bisogna eccedere con le mortificazioni, ma neanche con la morbidezza nei confronti dei ragazzi. E questo approccio ha trasformato l'idea stessa di educazione, che è stata sostituita piuttosto dall'accudimento, come spiega in queste righe l'autore. I padri e le madri fanno fatica a interpretarsi come educatori dei propri figli. Hanno perso o sostanzialmente modificato i loro riferimenti. Sul ruolo educativo predomina la cura, la salvaguardia, la tutela. I nostri bambini non hanno tutto, hanno più del tutto. Se avessero tutto, magari potrebbe anche bastare, ma il fatto è che hanno molto di più. Più giocattoli, più vestiti, più cibo. E la diffusione del sovrappeso infantile è un campanello d'allarme. Allo stato attuale, il problema della famiglia, che definirei morbidamente affettuosa, è la prevalenza della preoccupazione materiale su quella educativa. Anche perché tale eccesso porta con sé la convinzione che un bambino che ha tutto debba essere felice. Inutile dire che questo non accade. Un atteggiamento, questo, che può contribuire a fare del bambino un tiranno, magari per 5 errori molto frequenti che così l'autore sintetizza: la servizievolezza, cioè il sostituirsi al bambino anche quando sarebbe autonomo, l'anticipare i bisogni del bambino senza neanche permettergli di sentire e vivere i propri desideri, e infatti i genitori spesso inondano di una cascata di proposte i figli di attività, di regali, di progetti, di soddisfacimento di desideri prima ancora che il desiderio possa provarli. Terzo, di la continua assistenza che trasforma i genitori letteralmente nei maggiordomi dei propri figli. E poi ancora il discussionismo, cioè il parlare invece di educare, e infine la delega decisionale. Interrogare il bambino riguarda questioni che non è in grado di affrontare, e quindi troviamo in questo volume uno strumento utile per gestire questi rapporti attraverso anche una serie di suggerimenti per dare maggiore responsabilità a figli e genitori. Uno degli ambiti nei quali più frequentemente e intensamente si manifesta la conflittualità tra genitori e figli, soprattutto nella fase dell'adolescenza, è la scuola. E allora segnalo un altro strumento ai genitori, proposta dalla psicologa Katia Provantini. Il libro si intitola Scuola Media, cosa occorre sapere per non farsi travolgere, pubblicato da Mondadori, 17 euro, 156 pagine. I genitori dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni sono i destinatari di questo libro. Quella è una fascia di età nella quale si manifesta molto spesso una crescita del disagio scolastico per le ragioni più varie. E allora questo libro cerca di presentare, di affrontare queste difficoltà legate in gran parte al passaggio alla fase della preadolescenza, che fa spesso cambiare radicalmente il punto di vista dei ragazzi, i quali si sentono osservati in una maniera diversa. Infatti, scrive la Provantini, i bambini interessati e amabili di un tempo diventano preadolescenti sbagliati e deludenti di oggi. La repentina metamorfosi è attivata soprattutto dal cambio di soggetto che osserva e giudica. Lo sguardo dei coetanei si fa implacabile laddove i genitori sono stati più clementi e tolleranti. E qui abbiamo un catalogo discorsivo delle difficoltà possibili, nonché delle manifestazioni di questo disagio che dovrebbero insospettire i genitori e naturalmente di come farvi fronte. Sul tema della scuola, infine, segnalo tre libri. Il primo è una storia della scuola italiana, quella di Hervé Cavallera, pubblicato dalle Lettere, 314 pagine, 22 euro, che ripercorre la storia dell'istruzione organizzata dai primi secoli a oggi, che Cavallera legge nelle sue conclusioni come dominata oggi da pressioni tecnologiche ed economicistiche che anche in chiave internazionale si sono verificate, sono state alla base degli interventi succedutisi negli ultimi anni. Sempre su questo tema segnalo poi il libro di Giorgio Mele, Per la scuola di tutti, breve storia della scuola italiana, pubblicato da EDS, 152 pagine, 12 euro. Questa è una storia degli interventi politici sulla scuola a partire dall'unificazione, un libro ispirato alla difesa della scuola pubblica che oggi, dice l'autore, l'offensiva liberista mette in discussione. E infine vi ricordo, per il periodo 1861-1901, l'istruzione secondaria nell'Italia Unita, curato da Carlo Lacaita e Maria Chiara Fugazza, pubblicato da Franco Angeli, 412 pagine, 48 euro. E troviamo qua una raccolta di saggi nata in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia per analizzare quella che viene definita la complessità del sistema formativo italiano, e si affrontano molti casi specifici e particolari, per esempio l'insegnamento dell'italiano, l'insegnamento della matematica, il caso dell'istruzione femminile, e un capitolo è dedicato all'educazione fisica. E a questo punto il confettino. Una strana scuola è quella dove capita come maestro Lapo, nel libro di Michele D'Ignazio, Storia di una matita scuola, pubblicato da Rizzoli, 144 pagine, 8,90 euro, dove ritroviamo il personaggio matita, qui capace di incantare gli 8 alunni di una classe elementare. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Peter Bescappè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.